l'ha fatta questo cazzo di station wagon? Un pignolo, vale una trentina. Ehi, questo vuoi, a fello pagare io, se sta da camion non me ne viene importato, piano piano. Oh cazzo, l'ha fatto lottare il cervello mio a compare Malanconio, però c'è riuscito a farlo, funziona tutto, Hai capito che non ci vuole 5 minuti come pensare a niente, no, fare le cose, ci vuole passione, strumenti e soprattutto sa per mettere le mani al posto giusto lì. No, no, l'ha fatto un connettorino, quel microfono manco toccato là con gli spinotti, da lì ci ha fatto un altro innesto, poi l'attacco a sé, antipetà, test, bababà, barabam, bibabam, tutto schermato, ce l'ha, è a posto, attacchiamo, grazie a Dio che funziona bene. Ma l'ha fatto, poi come c'ho io là, quindi se lo devi usare in un'altra radio ce l'hai pronto, là, già andrà bene. No, lo volevo, poi ti racconto la su 48 cazzo, merda sono cazzo, quelli da poca dosa buccia che la proposta su siciliano, capito? Ho capito. Ti ricordi quel 48 che mi ha portato Antonio, no? Che era tutto con le luci, però c'aveva un difetto e quindi... E ho cambiato la buccia al 48 siciliano, Hai messo quello là che ti ha portato Antonio, l'hai messo in quell'altro. Era tutto, già te lo spiego lì, che non entrava il PL, perché era passo diverso, come te sono andato a stringere, a posto fatto tutto. Vabbè, tanto a Poleale mi sono rotto le balle, ho cambiato frontalino, e attaccato a Cuddo siciliano, è tornato, no. Vabbè, ci avevo messo i tetti di Cuddo, glielo vedi. Adesso eravamo un po' stanchi, si era troppo morigato il cervello, se no voleva chiamare anche lo Smitter, ma anche lasciala un altro giorno, oggi questo non è roba di fare, ci vuole calma. Ma... Vabbè, ci vuole calma. Ma me lo avessi arrivato adesso. Adesso mi imbarco in via l'Italia, no? Sì, via l'Italia, poi vai a vedere tutto già ci si arrivare. Praticamente c'è la scala di Cioccami, c'è la prima rotonda giù, poi c'è la seconda, tu tira sempre dritto, alla terza rotonda che vedi l'edicola, no? Entri lì, entri dentro, praticamente scavalchi la via Milano e ti metti in via La Malfa, come sei in via La Malfa dall'edicola io sono 50 metri, già vedi il furgone, ti ho detto, vedi il furgone parcheggiato. Andrà bene, e alla faccia a fare, o meno, non è che sia residente, ma quasi. No, ti avrai appiccino. No, per carità, a volte, quando viene qualcuno per compagnia, mi dice, ma qua non si passa, mudo, poi ti leva la che se si dia. È facilissimo trovare, mai capito, non c'è nessun problema. Ti viene di passaggio a me. Ma grazie a Dio qua ci vengo 30 anni qua, e più o meno qualche il mio nome della via, ma la zona più o meno è già la soda. Sì, io non credo. Qual è il problema? Però è facilissimo da trovare. Molto bella cosa niente. Bella. Bella, accompagnatrice. Accompagnatrice. Ah, Antoni, ti libri io, te vieni a fare. Voi te lo vento, te lo dico, quando vieni qua te lo vento, non parliamo. Ah, ecco, andrà bene, perfetto, mi di fronte a sto scarrabuso. No? Vai, scendi, vai sempre dritto, fai l'incrocio sempre dritto. Dopo la rotonda sali per salire su via Milano, combina una dopo il fornitore, primo il fornitore trovi c'è la rotonda. UGB di Sassari che era di Mappole, capito? Eravamo in una banda, in un'altra banda eravamo. Roma, le 9 pure un negozio grande cinese, che c'è successo? Guarda, cinese sono a fare una manica di fantasia, sono rocco, sono... Ma dove c'è l'Eurospi? Ehi, tutto ci hanno comprato lì, me. E dove c'era la concessionaria lì, me? La muraglia cinese. E già lo so, sì. La muraglia cinese. Qual è questo palazzo bianco, il tuo? No, quello più alto. Dove vedi le antenne? Dove sei arrivato? Iniziando alla via Milano sono. Una rotonda, me. Dopo che sorpassi la prima rotonda, inizi a salire prima di arrivare alla seconda rotonda, già le vedi le antenne. E quello giallo e grigio, quello alto alto. No, dietro la Monfenera io. Dove sei? Registrato bene, dove sei? Dietro la Monfenera. Quando inizi a salire dopo la rotonda hai già fatto, prima arrivare alla seconda, già le vedi le antenne, avanti bene. Buonasera a tutti, ciao Pinocchetto, ciao Claudio, doppio rum, va? Doppio rum, coordinate qua di Sassari, in fase di passeggio. Sta volando sta luce? Io non smonto mai, sempre attivo. Ce ne sia sempre? In aria che non va, lavoro, grazie a Dio, anche ci stufa. Vabbè, bisogna prendere quello che c'era, bisogna accontentarci adesso, per poco di fa. Vabbè, purtroppo siamo in un periodo che è un po' critico, accontentiamoci, se non è che ci incazziamo direttamente. Oh no, me che già l'ho visto la furgonetta, me. Ma entro nell'altra parallela scendendo, giovanotto. Poi se lo vedi all'interno, ciao Gianni, buonasera, all'interno sì. Ma bisogna entrare dalla rotatoia lassù? No, dalla seconda, dalla rotatoia, perché l'hai sorpassata la rotatoia. Conteggiavi la rotatoia e poi subito a destra, c'è l'ingresso, no? Sono quasi dove c'è scritto questura. Ho capito, mi devo prendere qua dove c'è scritto campi da tennis, te la zuccata. Dove stai andando? Se l'hai ciò che stai andando. No, non mi aspetta dalla Giappone, in tegazzo este. Via Gian Giovanni Melis, può essere. Stai salendo là sopra, adesso non so se ce la fai a scendere. Quindi hai fatto la seconda rotatoria, così è. Adesso c'ho dentro questo vicinato, sono di fronte al rifornitore. E sei dentro il vicinato, scendi allora. Scendi sino alla fine della via e poi anziché girare a destra gira a sinistra e praticamente dove c'è la furgonetta mia ti fermi. Sono fianco dove c'è il Michele, dove cazzo, questo cazzo è solo, ragazzi. Accidente. Ah ecco, lo stop. Gira a sinistra invece girare a destra, se no esci fuori. E scendi praticamente dove c'è la furgonetta, dove c'è posteggio, ti fermi ed ecco il cancelletto piccolino grigio, capito? Entri lì a piedi, subito dopo il porticato c'è il campanello. Ho preso oggi, già sceso, vieni. Oh, questo cancello grigio, io sono... Ma bisogna entrare qua in questo cancello verde, no? O più giù? No, posteggio dove c'è la mia furgonetta, devi entrare a piedi, che è chiuso il cancello. E se è aperto poi non puoi uscire, che è proprietà privata. Posteggia, a piedi c'è un cancelletto, lì c'è il recintato, c'è un cancelletto piccolino, grigio. Devi entrare lì a piedi. Come entri a piedi, a destra, subito dopo il porticato, a destra, alla tua destra, sono due scale, una a sinistra e una a destra ti apro il portone. Cioè, dove c'è questo cancello grigio, verde aperto? Il grigio dov'è? Il grigio è più indietro di te, più indietro, le marciapiede. L'ingresso a piedi è lì, lì entrano le macchine e tu lì non puoi entrare. Vabbè, lì cosa trovo? Campanello e te pare scritto? Posteggia, entri a piedi nel cancelletto grigio piccolino. Come entri nel cancelletto, alla tua destra ci sono i campanelli, c'è un portone davanti senza campanelli. Dietro, all'angolo proprio, all'angolo, sono due ingressi, uno davanti e poi dai, io ci provo. Comunque più su salendo, là. Ok. Dove sei andato a finire tu adesso? Dove sei? Di fronte a quel cancello verde, e boh, di fronte lì. Posteggia, e a piedi, un pochettino più avanti, dove tu hai citato, dove c'è il giardino, c'è un cancelletto verde, grigio, lì si entra a piedi, tu entri a piedi lì, io già ti chiamo al citofono. Andà bene, là. Sì, avanti già. Pagato. È difficile. Andare a pagare. E allora qua non è fatto nessuno, sì. No, io ho il 40 metri con Salvatore, con citrosolina, sto facendo le chiacchiere, poi mi ha scolato col telefono e era Pinuccio, era Sassari, e allora tornerò a casa, capito? Però non ho sentito nessuno, ho tutta la sera acceso qua, ma no, non c'è questo chi è. Ricevitore che ho comprato la moneta del Mario Mao, c'è una ricezione allucinante, va a volare, ma me ne sto innamorando. E bello, la colore l'aveva fatto aggiustare perché era fermo un po' di tempo, poi deve essere ha cambiato le valvole, non so cosa gli ha fatto. E anche lui era molto affezionato. Lo so, già è qua. Aspetta per essere recupera Pinuccio, dammi un secondo già. Mi sono scendi a prenderlo. Prego. Avanti, chi è? Ma sei tu, Gianno? Sì, a te. E io? Allora, come va, Gianno? Buonasera. Ti sarò bene, grazie a Dio. Mi ero in giro, sino adesso mi sono messo a casa, accompagnato mio nipote che era pranzo a casa, e poi me ne sono ritornato. Io quando era, 2 ore fa, è una cosa del genere, stavo sul 5, c'era, non mi ricordo come si chiama, quello di Usini, mi sfugge il nome, e stavo cercando una fontana per prendere l'acqua perché Aussi non sta più scendendo, pochissima roba, perché ha fatto poca acqua, giustamente poche piogge. Allora sono andato a Usina a prendere, sto tornando adesso, adesso ho acceso, mi ha sentito a Claudio che stava andando via, e poi a te sono entrato. Gianni di Usi. Esatto, Gianni, sì, voglio dire Gianni. Stiamo cercando Gian Maria sul 5, ma sicuramente oggi non ne va voglia, io sto facendo delle prove, perché parlando con Gianni di Chiaramonti, si è sistemato un'antenna, sì, me l'ho sistemata, dice Gianni di Chiaramonti, per l'inverno, e anche io sistemata, ma adesso ci riprova a controllare. Salgo su e all'interno della bobina in rame, si vede perché è protetta da un involucro trasparente, era completamente piena di ossido bianco, ho dovuto scenderla, smontarla e ripiattarla. Se tu mettevi quel grasso che ti dice lui, anche il tifo, allora quell'ossido non si forma più. Tu gliel'hai messo proprio all'interno del rame, proprio all'interno gliel'hai messo il grasso. Io gliel'ho messo nelle parti strategiche, ma quel grasso lì praticamente fa scivolare tutta l'umidità, eccetera, eccetera. È fatto apposta per quello. L'ho messo sul piede, l'ho messo nei radiali. Prima ho tolto il radiale, l'ho messo dentro dove incastra il radiale di ricezione, e poi l'ho infilato dentro. Con il grasso riusciva dal buchetto, si infila il dado. Là. Poi l'ho tutti quanti riempiti di grasso, prima di scendere. Adesso, grazie a Dio, va bene. No, ma anch'io lo stesso avevo messo il grasso come avevano consigliato nel TL e nelle parti, come dici tu, strategiche alla fine. L'ho fatta anch'io. E diciamo che non te l'avevo fatto un anno fa, una cosa l'altra, si è passato un anno dall'ultima volta. E diciamo che il grasso sì c'era, ma c'era compattato la maggior parte, non c'era più. Giustamente l'acqua e il sole già se lo porta via. Io ho dato un'altra ripassata, ripeto, riscesa giù. Smontata, pulita, appena ho passato un paglierino lì, quello per fare i piatti, sai, per sgrassare le pentole, tutta l'antenna, ho controllato, diciamo, il mio isolante nelle giunture, andava bene, non c'era nessuna infiltrazione, ho dato un'altra passata, ho ripulito lì quell'ossido, messo il grasso per isolare, di nuovo ho piattato e vedo che già sta andando sempre bene, come stazionarie, siamo sempre lì, non è cambiato nulla, l'ultima pulizia, già sta funzionando bene, dai. Galassi non si è più usato. Sì, adesso aspetta, stavo usando il... sto usando adesso il 68, il Midland. Cioè va bene lo stesso. Un po' più bassino, sì, un bel po' più bassino, ma cioè si sente. Sto qua, sto uscendo con... modulati quasi 3,5 watt, un di più. Comunque anche se il segnale è basso la radio va bene, sì, è abbastanza orecchiabile. Invece il contrario, il segnale è 9, segnale 9, però la radio è un po' bassina, non è pompata, è una radio normale. Così cambia qualcosa, perché quando stavo parlando con Usini era troppo alta, vedi un po'. Così cambia da giorno a notte. C'è il Mickey Gain dell'apparato a metà, adesso c'è manca, l'ho aumentato di un quarto, no, di un quarto alla fine, sì, non l'ho messo da manetta. Così va bene allora, la faccio così. Capo, ma cresce con l'amplificato? Anche può fare con l'amplificato, adesso sono amplificato. E ho aumentato come hai detto tu. Poi lo rimetto a metà, vedo sempre con l'amplificato, sto regolando direttamente il Mickey Gain dell'apparato, adesso rimetto come hai detto tu, dai. Ok, sempre con 68. Perché poco fa sembrava un microfono normale, dico la verità, adesso si sente che è amplificata la radio. Sempre così, ho toccato mettere il Mickey Gain tutto lì. E intanto faccio girare un po' uno, un po' l'altro, ma già il grassi già è sempre qua. Poi ho visto, lo sai cosa? Come si regola, diciamo, il regolatore dell'eco del Galaxy. Quando ho un pochettino più di tempo e c'è qualcuno che mi sopporta un po', lo apro dietro, gli do una regolata in modo da regolare l'eco, perché tu, diciamo, ho capito la modifica che è stata fatta per regolarlo e dargli quell'effetto bello che hai, e invece a ogni volta tocca aprirlo e regolarlo, ma lo metto in un punto dove è più comprensibile la radio, perché diciamo come regolato adesso già dalla fabbrica è troppo accentuato, e solo dove mettergli le mani, quando un pochettino di tempo gli do una giratina a quel pezzo solo, che poi dietro lì nell'angolo sulla destra, come togli il capo te lo trovi subito il modulatore. Io adesso non sono con l'eco del Galaxy, sono con l'eco del microfono, del Proxel, quello del Galaxy è chiuso, se vuoi te lo faccio sentire quello del Galaxy. Ok, non c'è problema, avanti il prego con la buonasera. Ok. Qui Barracuda da Ossi, sta arrivando Santiago 8 Radio 5 con leggeri picchi positivi da parte mia. Ok, grazie, grazie. Passa di 6-4, 4 Radio 4. Ma mia, zona via Valdese. Prima di lasciarti andare, il mio segnale è così pulito come dalle tue parti? Vabbè, il segnale della radio in sé mi interessa di più, va bene così? Come adesso, invece così cambia qualcosa? Perfetto, ti ringrazio. Adesso da 8 sei sceso a 6. Santiago 6, radio 5. Però la radio rimane, pur essendo 5, leggermente cupa, ti sento. Io sto usando un Ala 68S. E dunque mi sta indicando così, qua Santiago 6, radio 5, leggermente cupa. Io ti sento così, poco fa è molto più chiaro il primo passaggio che hai fatto. Confronto a questo che il secondo si vede che ha diminuito un po' la situazione. Il Santiago è sceso da 8 a 6, ma la radio è rimasta invariata sul 5, ma leggermente cupa. Io ti sento così. Alle prossime. Fatto, ci sono nome che non li attacco. Cioè li accendo ma non li uso. Intanto li faccio girare io, mica oggi sto usando il 68, settimana scorsa l'avevo usato con il mio fratello, lo Zodiac, che non è male, porca miseria, come ricezione, non è male, e poi ti dà anche una, un, diciamo, suono diverso, un ascolto diverso quando attacchi le casse, rimane molto più pulita come ricezione, confronto al 68, e intanto anche il garage, intanto li faccio girare tutti e tre, un po' a testa, no, alla fine, per non immandronirsi. E a me mi hanno regalato un bel Tokai 5024, ma bello veramente, pesante, bello, nuovo nuovo. E quello, aspetta, dovrebbe essere, scusami un attimo, ok, dovrebbe essere 40 canali, o sbaglio, di meno erano? No, è 23 più l'11 alfa. Ah sì, 23 canali, che rimane, diciamo, la struttura tutta blu. Cappa con la gomma nera attorno. Poi la rete ce l'avevo anch'io quello, nuovo di Zecca, che poi ho fatto scambio con Giampaolo di Portotore. Sì, è molto bello come apparato, già è bello massiccio, già si vede la differenza. Quello lì lo mettevano molto in barca prima perché era bello massiccio, resistente, robusto. Sì, e c'è la possibilità anche di cambiare i diodi, non solo i diodi, se non mi viene in mente il nome, che puoi cambiare frequenza, non me lo ricordo. I quarti. I quarti, sì, oggi sono un po' di memoria, devo mettermi a posto. Sì, i quarti, esatto, c'è quella possibilità. Se non sbaglio dovrebbe esserne 14, all'epoca avevo contato così. Procurati, cambi frequenza e ti diverti anche così. Però giustamente, purtroppo devi tenerla aperta e metterci le mani, ma per l'FM in 27 va benissimo. Tanto di solito si va su questi canali. Solo che è un bel potente, un bel forte come apparato. Esce un bel forte. Si vede già la sua particolarità, no, già è molto carino, già se ne trovano fortunatamente ancora. Comunque nuovo nuovo, era di qualcuno che non utilizzava più, così è. Ma non già lo utilizzava, ma mi ha voluto fare un regalo, io ne ho fatto una a lui e lui ne ha fatto una a me. Io gli ho detto non volevo nessuna cosa in cambio, ma me l'ha voluto dare lo stesso, ha detto io ti voglio fare un regalo e tu non lo vuoi accettare. E no, gli ho detto sì, lo accetto, però non è dal caso. Va bene, vuol dire che già ti faceva piacere farlo. No, già va bene, già è bello anche come collezione quelli, e perché no, a Puglia. E poi sta velocizzando il Polmar, che ogni tanto mi fa compagnia, già è tutto sotto controllo. L'alimentatore mi devo cercare, porca miseria. Non come si dice, di quelli di nuova generazione, quelli vecchi generazione hanno di 10 ampere, perché è troppo piccolo quello che ho da 3 ampere. Io ne ho uno da 10, vecchia generazione, poi ne ho uno da 50, nuova generazione, e uno da 35, nuova generazione. Da voi, ma mi andrebbe bene anche da 10 a me, ed è perfetto, almeno da 10 ampere. E vedrai che prima o poi già lo becco, anche di seconda mano, le parti che funzioni bene. E io ce l'ho da 10 ampere, 10 ampere però te li dà tutti, è molto buono come quello. Ed è kit elettronica, cavolo, di quelli buoni. Te li tiene tutti 10 ampere, non è come quelli che sono fasulli, scrivono 10 e poi ne dà per dire 5. E poche cose sono di quegli scatoloni che hanno le rete di raffreddamento e poi in un lato hanno, diciamo, il finale di quelli tondi, giusto, con due inserti, con due gambette, dai. Ma si c'ha il dissipatore dietro. E poi si vede anche il finale, ma il finale, il finalino, dovrebbe essere il finalino, si vede proprio eternamente con la scritta, giusto? Che è collegato insieme a due viti a taglio. Sì. Ma lo stai vendendo quello? No, tutto è stazione, ci ho capito, ogni apparato c'ha la sua apparecchiatura, è fatta piano, e l'hai vista mi pare, no? No, non ho avuto l'occasione. Ma io troppo piccolo, c'ho da 93 questa roba, che funziona perfettamente, della visa elettronica, 3 ampere, 12,6 volte 3 ampere, ma si vede che quando attacco il 68 scalda abbastanza, invece col Zodiac che rimane bello tranquillo, non basta, dovrebbe qualche aiutino in più per funzionare bene. E là piano piano già escono le occasioni. Hai fatto un po' di occasione, ci sei passato qui al mercato delle pulci di quel napoletano lì di fronte alla piazzetta? Sono andato due volte, poi non ci sono più andato, mi pare un montinaggio. Quello già è vero, c'è tanto di quella cosa che è impressionante, io ci sono andato venerdì mattina all'ufficio di collocamento per fare dei documenti e sono passato lì, vediamo un po' cosa c'è. Guarda, quel tipo sta facendo i soldi come la paglia, è una cosa impressionante. Ce ne dice a Brusaglia e ho trovato un apparecchio per controllare le valvole, per vedere se sono buone. C'è scritto da riparare, 20 euro. No, io non ne so neanche usare. Ma non mi ricordo cosa c'era scritto, controllo valvole, una cosa del genere, si vede che è abbastanza vecchiotto, in buone condizioni, e poi c'era scritto da revisionare, da riparare, ma sono pezzi che li puoi mettere tranquillamente le mani addosso, i pezzi si trovano per quella roba lì, non è come adesso tutto microcircuiti, e veniva 20 euro, qualcosa di interessante c'era solo quello, poi il resto, televisioni, radio, giradischi, cassette, DVD a 1 euro, VHS a 1 euro, ce n'era poca di roba. La gente comprando a più non posso, guarda. Ci vanno anche i zingari a comprare. Ho visto che c'è qua, un montone di centrini fatti a mano, tutto a 1 euro. Ma belli, mi c'erano tutte le dimensioni. Ho visto anche quello, se anche il vecchiario a 1 euro, se aveva la maggior parte erano usati. Il resto qualcosa di nuovo avanzato in magazzino, ma ce n'è, guarda, di ogni colore, anche televisori tubo catodico a 20 euro, 25 euro, poi se non ti va bene il prezzo te lo abbassa. Ti dico che venerdì ho dovuto chiamare uno che lavora lì per dargli una mano alla cassa perché c'era una fila impressionante, ne veniva i schiavi di soldi, anda la mondetta, porca miseria. Poi non serve la differenza, se tu c'è qualcosa la puoi portare lì, venderla, ti paga subito. Giustamente vi dovete mettere d'accordo con lui, il prezzo, che vada sia bene uno all'altro, ti prendi subito e te ne vai. Invece a Portobello devi aspettare che l'oggetto venga venduto per poi ritirare. È vero, però l'altro giorno io gli ho portato la macchina fotografica che avevo, la telecamera e altra roba tutta funzionante, e dice, boh, io non so quanto valga, questo e quell'altro, ritorno un altro giorno, vabbè. Prima mi ha detto la moglie di portarla qui, hanno visto che era roba nuova, di valore, che c'è roba di roba, e allora non me l'hanno presa. Solo prendo roba che costa poco e poi se la rivendono magari molto di più. Per dire, io una volta ho beccato due baracchini, l'alimentatore, lineare, eccetera, eccetera, e li ho fatti prendere a Claudio, l'ho telefonato e li ho fatti prendere a me. Certamente lì a Portobello? No, sempre lì al mercato delle pulci. Io mi sono comprato un microfono amplificato, 10 euro. Ma va, direttamente lì da quel napoletano, che modello era di apparato? Ma questo è da molto però. Sì, non è da molto, sarà un mesetto fa. È bello era come apparato, sì, funzionante. Una 84, cavolo, se funzionava, l'ha attaccato qua, funzionava bene. C'è un 84 e poi un altro che non mi ricordo cosa era. Qui c'era un linearetto da 100 watt, di quelli della ZG, e un alimentatore. E anche tutto 150 euro. Ah, è di lusso. Ebbene, non è riuscito Claudio a dirgli, a fargli abbassare un po' il prezzo, o non ci ha provato? Me li voleva dare 100, dico la verità, tutto 100 euro, e non glielo ho presi perché ho detto se non funziona poi me l'ha fatta bene. E invece quello ci ha tentato e è andata bene. Già va bene, è un buon prezzo anche lo stesso, 150, ma 100 euro è ancora meglio, perché no? No, già non ce l'ho presente il 60, i metri, se alla 64, così. 64. Ah, alla 84, no, non ce l'ho presente, sicuramente avrà sempre la tipica forma dei Midland, giusto? Questo verde militare con tutte le regolazioni in basso. Sì, quello era un 48 con le scritte sopra. Capito? Con le scritte sopra. C'è scritto Midland, 84. era in buone condizioni, sì, vabbè, o discrete erano, vabbè, eternamente. No, erano abbastanza buone, erano abbastanza buone. Ah, l'altro era l'Intec FM500S, non lo ricordavo. Ah, no, io sono passato e non... Non ho visto di questa roba, ho visto sì, c'è quella vetrina videogiochi, vecchie telecamere a Super 8 e tante altre cianfrusaglie, e a volte già capitano le occasioni, manco te le immagini, vai lì e trovi quello che ti piace. E intanto bisogna andare sia uno che l'altro, sempre sperando che il prezzo sia abbastanza ragionevole. Bisogna sempre tentare, ogni tanto, già è vero, c'è tanta mondezza, però a volte trovi occasioni. Devi trovare la giornata giusta col portafoglio sempre appresso. Eccomi qua, sono rientrato, non so se mi ascoltate con questa radiolina. Cappa che ti ascolti, ho detto che l'FM500. No, questo è il console primo con l'M500 da tavolo, con l'M500 da tavolo. Va benissimo. No, stavo parlando del mercatino degli impucci, mi stava dicendo Antonello che è andato, ma non ho fatto niente di bello. Siamo andati noi prima, con Gianni, che ti ho comprato, Antonello, ciao, buonasera. È andato via Sobinuccio, che è passato a trovarmi 10 minuti. Io ho comprato un Intec Mini, e mi ha detto Gianni che c'era, ma sono sceso, ho preso un Intec FM500S, nuovo, ma più nuovo di quello un Alan 88S, con le bande laterali, bello, tutto per 100 euro. Poi in più ci avevo un lineamento da macchina che ho regalato a Daniele, motrice pazza, che riceva per la macchina, un alimentatore e un portatile. E gli ho dato 50 euro. Ah, è il portatile. Ciao, allora, buonasera. Un portatile l'ho visto anch'io a Portobello. Cioè, non ricordo se 25 canali, proprio di quei tipici portatili con antennone, bello abbastanza massiccio. Ma adesso mi ricordo se costava sui 25 euro, spero di non sbagliarmi. Ma no, non mi interessava, a Portobello ce n'è una vettina, non so se c'è ancora. Non mi ricordo neanche che modello sia. Se puoi passare, ti piace, per collezione, ci dovrebbe essere ancora. Per la mia curiosità, si è spaventato Pinuccio il Moro? No, si è seduto, ha detto che io volevo un bicchiere d'acqua fresca. Allora ti sei succonato, da? Pinuccio, partita sì. E come mi sono seduto c'è il vibratore in quel sedile, non me ne volevo distaccare più. Ascolta Pino, ma te l'hai immaginato una cosa del genere? Sì, no, era buona. No, me l'immaginavo no, comunque ya. Già non ci sono problemi, già ho visto che c'è una bella stazione, là. Migliore della mia dai, Vabbè, se sei succonato, dai, non ti preoccupare, là che è un'altra da te, apa, sì. Sì. Acconato, chi sei ancora succonato, si la che è un'altra da te, apa. No, vabbè. Ma della roba sua poi che è trattata bene. Sono contento. La roba mia che gli ho regalato anni fa, mi è piaciuto vederla che li tratta bene. Adesso rimango contento. La verità, pensavi che non c'era? No. Io una cosa ci tengo sempre, quando mi regalano una cosa che sia anche non funzionante o che sia come quel base che tu sai, che hai visto, non c'è niente da fare, io tengo sempre le cose con molta attenzione, capito? Ci tengo molto a queste cose, a differenza di molti altri che se ne disfano e non va bene, non va assolutamente bene, capito? Anche se non funziona è sempre un regalo e rimane lì, capito? Magari serve a te stesso per fare qualche cosa e ce l'hai, però no, non si dà mai nulla. Ok, quindi Gianni Doppio Room, come va questo microfono? Va bene allora? Che microfono è questo qui? M500 da tavolo, c'ho l'M500 e l'M600, tutte e due ce li ho. Sì, la moglie che va bene, va benissimo. Sì, c'è appena di reverbero, l'ho messo. Già va bene, ma non avete detto nella così che va bene, giusto, per le, ma posso anche chiuderlo, vai, non c'è problema. Ok, va bene. Avanti Antonella, riprendi per zio Pinuccio. Via, adesso giustamente bisogna accompagnarla a casa, sicuramente sta rientrando, giusto? E dai, anche a tre a tre. Ma sai come fai in fretta? È in folle. Allora come non detto, dai, e anch'io. Dai, ma non c'era meno testa, già ti viene la voglia. Poi in linea vera siamo vicinissimi, sarà di Gioca Osi, nel punto che sono io. Santiago 9, qua Radio 5, bella pulita. Già ne lo sento leggermente sporco come modulazione. Anche a me, Antone. No, a Gianni, prima stavo uscendo meglio, adesso lo sentivo leggermente sporco, non so se l'hai sentita anche tu, non rimaneva molto chiara la modulazione. E a tratti era compresso, ma abbastanza comprensibile, dai. KK. Allora, prima, i cavi dove li ho messi secondo te? Io sono tornato, me li ho messi. I cavi che non si vedono. Antonella, chi mai cavi dove sono? Non ce ne cavi, no? Qua non ce ne vedono cavi per terra. Infatti è la stessa domanda che ti avevo fatto io, infatti intanto abbassavo la testa ma non vedevo niente. Sicuramente andava via internet. No, sono praticamente sotto la base della scrivania, dentro la canale, capito? È stato fatto un lavoro omicidiale con Mastro Giulio, un lavoro fatto bene e purtroppo qua siamo a casa. Qua se molli i cavi per terra ce ne saranno una cinquantina. Se passa mia moglie sai quanto ci mette con l'aspirapolvere, tutti li aspirami e non ne rimane neanche uno, è proprio detto, se li mette le mani addosso veramente non ti rimane niente. Mamma mia, io vieto, c'è di vieto qua d'ingresso, capito? È sempre pulito e ordinato, perché io mi tengo sempre tutto in ordine. L'unica cosa che fanno loro mi lavano per terra, però lavano bene, passano tutto, aspirapolvere tutto, perché in terra non c'è niente, capito? Non c'è niente, quindi no, non ci sono problemi di danno, però bisogna sempre stare attenti. Va bene. Gianni doppio Roma. Ah, dove è andato Gianni? Parigo. Dimmi dove sei arrivato. Dimmi se non mi senti che cambio radio, che questa c'ha 4 watt. Fermato ti sei più. Era a prendere il pennello per spazzolare gli apparecchi. Ia. Avete Antonello che ti ascolta leggermente compresso. Attenzione, Pinuccetto il Moro. Ti attacchiamo il presidente, va, commutiamo sul presidente. Anzi no, adesso voglio commutare sulla cosa, no, vabbè dai, se no Pinuccio poi no, non mi sente che ho pochi watt qua, qui sono tutti baracchini vecchi, ma c'è una ricezione questo console che è la fine del mondo, non lo stavo più usando perché non c'era un microfono, poi mi sono ricordato che c'era questo M500 che Fabrizio mi aveva fatto le connessioni e allora gli hanno attaccato lì e va molto molto bene. E allora Antonio, cosa mi racconti? Da là due, dove c'è andato a fumare? A fumare? Ah, io già ho la mia stanza, chiudo la porta, finestra aperta. C'è un bel freschetto, ma non si sente neanche dove il fumo, niente. Tutto aperto, ventilato, già va bene. Questo è il mio covo. Attenzione, Pinuccetto il Moro, mi ascolti, cambio. E a me, sono andato a Plattamona a farmi un giro, ragazzi. Ci sono tutte le lippe buttandone tutti questi caseggiati del Lido Punta Bianca. Oh, è già ora di fare pulizia. Dove sei arrivato più che adesso abbiamo durato Gianni volontariamente, cosa hai detto? Ehi, a varcare la cimenteria. No, già ti ascolto sempre. Sempre bene con questo baracchino, quello che hai visto tu acceso, grande, in legno. In legno, sembra una centrale nucleare, questo. E tu immagini che è bella, il numero di funziona bene, c'è una recezione che è una favola veramente, poi c'è le bande laterali, perché altre avevano 23 canali, però in quell'epoca, a quell'epoca era così, 23 canali con le bande laterali, questi in base, chi ce li aveva stava anche bene mi, di soldi, perché costavano un sacco di denaro. Mi. No, è bello, perché è bello, è bello, a chi piace è bello. Cazzo di Alan 40 se sembrano di quei sottalberi di Natale, luce sì, e yeah. È la vita con i due americani, il Ruiz e il Duck, che belle che sono. No, non mi hai fatto come dove le metti vicino, ma con non solo le no. Lo so più, ma io ci tengo moltissimo, sono cose belle, cose vecchie, però ci tengo moltissimo. Dimmi già, mi ha chiamato Antonio, tu sì. Ma già mi sono, va, come sto uscendo questo apparato? Non c'è problema, un pochino compresso ti sento però. Non so se sono queste radio vecchie o se sei tu che stai andando tutta birra. Sono rientrato, scusa Cla, ho cambiato apparato. E anche io lo sento leggermente cupo. Questa come ti sembra, Cla? Cambia dalla prima che stavo usando. Il tuo giudizio, scusa se ti rompo le scatole. Stai scherzando, siamo qua anche per quello. L'altra aveva tonalità un pochino più medio alta, questa ce l'ha più medio basse, però va bene lo stesso, non ci sono problemi. Ehi, guarda un po' se cambia qualcosa adesso, perché mi sa dovevo regolare il microfono, aspetta. Vedi un po', no, così, perché c'era una regolazione del 68 devo metterla a 4 per uscire bene, invece adesso sto usando lo Zodiac Z30, qua sei migliorato qualcosa a confronti a prima, o lo lascio così com'è? Ma per me va bene anche così, adesso cambio radio e così ti dico esattamente, perché magari questa sai, essendo un po' anzianotta, anche se c'è una bella ricezione, però non ha filtri, non ha niente. Adesso attacco il president, commuto sul president, vediamo come arrivi. Rilancia Pinuccetto intanto. Attento Pinuccetto se ricevi il barracuda. Sicuramente sì, dai. Minimo sei stato a casa. Ehi, è privata cosa a me da casa tua? No, a muro sono. Mettendo a darmi il rilancio a salire la salita di violina. Lei no, perché già muro sauce già è vicinissimo, dunque come che sia a casa, dai, in linea d'aria, no, vorrebbe sempre bene qua, voglia. Ma non è che sia a casa. Sì, in macchina. In macchina? Prendi il furgone. Mi sei carenare, buono il furgone. Sempre dove ci vuoi. Quello già è vero, pienamente d'accordo. Tra una cosa e l'altra, quanto ci metterai? Un'oretta ad arrivare, sì. Se tutto va bene, no, devo passare in campagna. Non ho fame sicuramente, dai. Che sono famiglia, è una regione. No, già, è che le hanno portate stamattina. Delle pecore, mi sono fatto anche il pastore di... E a voi, ora già ne hai da fare adesso, devi prendere tempo anche quello. La mattina e la sera, presto, la mattina. E la sera sul tardi devi dedicargli un po' di carezze, gli devi dare, dai, che ci vuoi, che ne hanno bisogno, se no guai. Dai, che non è tutto le altre vendite, almeno quelle sono offerte. E infatti, ne hai 20, pianatie. Ma c'è anche il maschio, però è froscio. Guarda, no, non ci vuoi entrare in merito, non sa mai, occhio. Pensa che controlla sempre dietro. Se ci vuole. Avanti Cla. Ehi, va bene, ma io ho cambiato radio, sto andando col presente. E beh Gianni, ti sei pensellende, l'ho fatta con la telefonata, ma erano stasera direttamente funerale. Poi infatti era da ieri che è morto. Come sta andando adesso Antonio? Guarda vedi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso va bene, meglio di prima, va benissimo. Quanti break? Buonasera, adesso benissimo. E adesso, sai, mia figlia ha visto questa cosa nuova, c'ha tanti problemi da girare, quindi è sempre in questa radio. Ah, proprio mi chiamo. Ciao Massimiliano, buonasera. Poi c'è anche Pinuccetto in direzione Budusò. Ma infatti te lo volevo dire, guarda che sicuramente Gaia ha toccato qualcosa, perché è tutto strappato, ma niente di strano, niente di particolare. Guarda, pugni un altro, dove non ci arriva, sollevalo quel mobile, sollevalo, poi lo facciamo una prolunghetta per mettere il microfono sotto, magari, capito, se tocca il microfono non è niente. Però lì bisogna metterlo in alto. Pinuccio, avanti per Massimiliano. E ciao Massimiliano, Claudio e Gatto, Kende, mi sento il violino. Oh, Kende, ehi, con 10 watt. E allora se faccio così cosa succede? Guarda. Ecco, cosa succede così allora? Stai attento non ti si spenga la macchina. Cosa c'è, sì, quella fare nero che c'è dietro, Pinua, Cusciughi, quello lo punti, mi gira, tam! Ringrazia. Antone, cosa ne dici di questa modulazione, ti piace? Ah, beh, già che stava parlando Pinuccetto, Ma intende, c'è? Non lo sento. Già. Piccolo piccolo piccolo poi mi è sparito. Dove si è arrivato Pinu? Senti, no, aspetta, ti mando avanti a Massimiliano per vedere se lo senti. Avanti Massimiliano per Pinuccetto lì nella zona di Florina già. Ehi, a positivo, io l'ho già salutato, l'ho già salutato e lui mi ha risposto, non c'è problema. Avanti Antonè. Buonasera, non ti avevo ancora salutato. Sì, anch'io lo stesso Pinuccio, va e viene, ma già sono sempre, non riesco a tirarlo fuori. No, invece Gianni mi ha fatto una domanda della modulazione. Non è male, ma ti senti, aveva una specie di camera eco. Mi ha dato quell'impressione lì in quel passaggio che hai fatto. Negativo, qua non ne ho di eco. No. Ti sento chiuso dentro una scatola, non so se gli altri che possono confermare. Mi sembra la modulazione del 48 è questa, vero già? E il 48, il 48 plus. Infatti. È un po' grossolana rimane, non so cosa stai usando, ma DM1000, no? Avevi più 5, Massimiliano. È un po' cupo rimane, dai, però è abbastanza comprensibile. Claudio, per te. Bisogna vedere come c'hai i toni. A quanto ce li hai i toni? Già, quanto ce li hai i toni? Sto controllando perché ce l'ho sotto, capito questo. A zero. Prova a metterli a 2, a 3 i toni a vedere se cambia. Così sono a 2, guarda. È molto più chiara. È molto più chiara. Non puoi aumentarla la radio, al massimo ce l'hai il potenziometro del microfono. Papà. E mi inclina al massimo lo stesso. Yes. Però è molto più chiara. È molto più chiara, ti smorza quel metallico. Così è, Antonello, senti meglio adesso con i toni a 2. Sì, quello sì, confronto a prima sì, però secondo il mio modesto parere non è che sia un granché per il mio modo di ascoltare. Non è bella bella come modulazione. C'ha sempre qualche piccolo difetto, invece con l'altro apparato non c'è il paragone. Sicuramente la particolarità di quell'apparato è che dà quell'effetto lì. Non è bella bella, secondo me però già si sente bene lo stesso. Comunque, ma la so che questa parte c'è una bella ricezione. Ehi, ma il microfono magari non è proprio adeguato. Io ti ascolto, non ci sono problemi. E io, Antonio, sto andando con un microfono che costa più della radio, sto andando con l'MC80 con un President HR2510. Che è uno spettacolo, veramente una radio eccezionale. Vediamo dove ha arrivato Pinuccio, attenzione il moro. Eia, cazzo, cambia con lo sì. 10 watt quanti sono mi finucco? 10 watt. Con 10 watt la bestia è in quel rix, mi senti la ventola, è acceso, ma in stand-by. Quando non mi senti più, allora diamo gas, non c'è problema. 10 watt. È regolato con 10 watt questo, perché regola sino a 35, però c'ha 10 watt di portante e 15 modulata, quindi bastano per l'amplificatore, va bene. Avanti Massimiliano, e quindi non sei uscito? E io mi ci stavo preparando qua, ci abbiamo direzione Sassari là. No, sono tutto il giorno a casa, la verità, l'ho acceso, boh, non so, saranno state le 3:30, non c'era nessuno, ho spento e mi ho fatto la pennichella. E niente, là. Già, questa come ti sembra la modulazione, vabbè. Quella la telefonata l'ho fatta, tutto a posto, là. Anch'io. Vabbè, la vita continua e quindi niente da fare. Va bene che va bene. Non stai andando bene, oh Massimiliano, non c'è problema. No, io lo stesso, non mi sono coricato. Mi sono sdraiato nel divano, stavo seguendo le partite. Ho visto che la Juve dall'1-0 ha vinto 3-1 e quindi va bene così. La Roma era vincente 2-0, ne ha pigliato 3. Il Cagliari ha pareggiato ieri, va benissimo, il Milan ha perso. Mi pare che già messo, boh, non lo so. Adesso stasera mi pare ci sia l'Inter. Adesso accendiamo la TV a vedere un pochino. E basta così. Gianni, doppio Roma, avanti. Ti sai cosa sta manovrando? No, comunque già va bene qua, già c'è la differenza da una parata all'altra. Quello è pago ma sicuro. Dove? Tra questo presidente e quell'altro? Tutta un'altra minestra. Questo è un signor baracchino, è sempre un baracchino anche se c'ha parecchi canali, però è veramente eccezionale, veramente eccezionale, perché è molto compatto, è molto selettivo. Poi gli ho fatto stabilimento con il microfono della Chevo, va molto bene. Vediamo a Pinuccio prima che lo perdiamo. Attento al Moro. Primo Bill Gardner, sempre con 10 watt, mi ascolti sempre. Claudio. Ehi, quando non mi senti già acceleriamo, dimmi già. Cappa, mi dai un controllo con questa radio qua? Oh, questa radio qua ci rimangia tutti, questo è il Tokai 5024. Bella, bella, mi piace anche a me, molto bella come radio. Aspetta, se li mangia tutti e stai usando il microfono normale, ma come io ti parlo sempre, lo sai che io sono schietto, no? Ti parlo sempre come qualità di radio, come qualità di radio, tu stai usando un microfono normale, che sembra che, allora praticamente come qualità di radio è il doppio di quella che stavi usando prima, che praticamente avevi un microfono a tavolo, per farti capire, come qualità di radio, quello lì, col microfono normale si mangia microfoni alla grande, proprio si rimette in bocca di mastica. Guarda, e poi c'è anche Ciccarino. Gaiese, vero Antonè? Sei d'accordo, confermo, tutto un altro mondo, gente benissimo, bella potente, c'è anche il suo timbro particolare, è vero, i Tokai hanno quella particolarità, no, tutto, manca paragone, guarda, quello sembra più un giocattolo di quei walkie talkie che si usava da bambini a batterie, no, c'è una bella differenza, voglia, confermo, pienamente d'accordo. Io sapete che quando sento uno che c'è bene di radio, a me può arrivare anche Santiago Zero. Però quando sento qualità radio, per me è una gioia. E te balla la banda musicale, lo sapevi, cari mucho. Partire, sì. E ci avrei prima che Pinocchietto Moro non mi ascolti più, eh. Attenzione, Pinocchietto Moro, ascolti lo Sparviero con le ali aperte. Ah, già mi ascolti allora. Non ci stanno problemi, va bene, va bene. Massimiliano, a te il microfono. È positivo, no, io non lo sento più la verità, non lo ascolto per niente. Dov'è qua? Al rifornitore di Arda, Remi. Rifornitore Arda. Magari se ci mette solo. porto qualche aiutino, riesco ad ascoltarlo ancora. Fino a Meserio scrivani lì e lo riesco a accompagnare, poi con qualche aiuto sotto lo riesco a sentire, se no niente. Vabbè, attacca per pubblicato l'antenna, se lo senti. Sono sicuro di cui sei tu. E uso che già sarei su mani a gavola, ormai. Vabbè, mandami la piacere. Vabbè, capo di terretto, ancora vivo sì. Ciao, Giuseppe, buonasera, ben ascoltato. Compagnia di Antonello da Orsi, Massimiliano Bulldozer e Gianni Lupio Rut. Avanti Gianni per capo di Rigoso. Falcone, ben sentito, buonasera. Sempre Magna di Zio, così. Ho sentito una voce, sono passato, perché passo tutte le mattine lì, quasi tutte le mattine, e ho visto sempre in livello della seconda vece, no? Di Luperaggio si abbetta, e ho sentito qualcuno chiamare, però mi sono girato e non ho visto nessuno, ma tu eri a voce. Dopo Marisa mi pare, un rettilineo che ha c'è qualcosa, è proprio la DNC, è proprio un cavaletto, ma è molto più fare. E me l'ho portato per almeno un chilometro. In mezzo a poco un gesso incazzato ieri. E ho tirato per la mano e mi sono gavrita. Era che ne inviano la rovina strino, ma se voglio comunque come detta ce la via. Quando mi sono messo, vai in loro mai, te vai che in questo buco tutto il cuore me l'ha detto. E ma com'è andato a dove? Avevo pigliato la giusta a buco. Saluto Massimiliano, Falconero ti ha salutato Gianni Doppio Rum, adesso ti mando avanti a Gianni Capri 2, vediamo se lo senti. Adesso no, te lo saluto, ti saluto io da parte di tutti, dai. Avanti Gianni Capri 2, vai per Pinuccetto al Moro, vediamo se lo senti. Con un buon appuzio, che non gli appalti, e tu mi dici, sei capito? di qualche carrozzeria, via che me lo ripari subito, Claudio, come sai? Ti chiamava già. Sto cercando una carrozzeria, siccome uno che ha spiccato in fuma con la macchina. E sto cercando però, Claudio, una carrozzeria che non me lo trattenga molto perché devo fare dei viaggi ancora. Questo mese, quindi, hai capito, se mi ha spiccato in fuma in fuma, per fare viaggio con la macchina. Non le ho fatto una polera fare incidente perché stavo andando a Olbia, oggi è venuto con la moglie, col pagare la stanza, quindi non vogliamo una situazione come questa. Ora della tavola io lo voglio portare in qualche carrozzeria che lo faccia subito. Tu conosci qualcuno, Claudio? Ehi, ne conosco, ma parlami con Roberto. Parlami con Roberto prima. Ma qui non è che lo capisci così, non sono Batman, No, no, ma infatti mi pare che poi le stai appoggiando la mano, non so cosa stai facendo, intanto lo attenui. Ehi, adesso non si sente più, Infatti. Perché l'ho staccato. Sente la ventolina, però quando va in PTT, ma se stai mai, quando va in PTT fa più, capito? Proprio il come entra in funzione, c'ha due relay accoppiati. Allora, l'ho attaccato e c'era la pennuccia allontanata, sia che non mi sentiva. KK, già va bene, devo controllare sotto, maledizione, qualche vite magari che mi è sfuggita perché l'avevo aperto per soffiarlo, per pulirlo. Qualche vite sicuramente mollata c'è e quindi vibra qualcosa, amico Peschi, ho capito, niente di particolare, tutto a posto. Avanti Gianni doppio rum, riprendi. Apri due, riprendi. Ok, la riprendo. Io non lo sento questo, Cla. Radio Cla, ne sei collezionato sempre. Ehi, alla grande. Questo è l'ultimo arrivato, questo è un President HR2510 col microfono della Kenwood, però devo dovuto adattare un microfono della Kenwood, un MC80 perché non ne avevo altre a disposizione. Sì, sempre collezionando. E stasera è venuto a trovarmi Pinuccio e mi ha fatto i complimenti. Tutto in ordine, tutto bello ordinato, è tutto a posto, capri due, capito? Adesso ne metterò uno su uno, beh, ti ricordo, l'altra sera in un punto ho andato a Osai, non mi prende per il cellulare, devo chiamare, non mi prende per il cellulare, sono sentiti dire qualche cosa, siamo proprio fuori al mondo, tra le cose, quindi sarà anche io dove fumarlo meglio e non si sa mai che è capito di riserva. Ci vuole il baracchino nel pullman, caro Gianni, ci vuole, sennò è un bel casino. Claudio. Ja. Torno subito e termino l'operazione qua, ci sentiamo più tardi. Ja, d'accordo, già. Attenzione, Pinuccetto nuovo, ascolti lo Sparviero. Ehi, già, Pinuccio, ti sto ricevendo, ma c'è qualcuno che ti sta disturbando da lì, C'è qualcuno che da lì ti sta disturbando? Come infatti? Cazzo, io sono liscio e con 10 watt mi ascolti lo stesso, Abantine. E adesso meglio mi ascolti, Pinù. Guarda a vedere se mi ascolti meglio adesso. Allora non si scherza, Allora va molto meglio. Avanti Gianni Capri 2. Quindi quella roba che ti avevo detto, quella 23. E lì ci possiamo vedere, cioè, tanto c'è un numero di telefono, io ho capito. C'è qualcosa anche di più interessante del Sommer Camp lì. Non c'è problema, 40 canali, base, un po' più recente del Sommer Camp, hai capito già? Un po' più recente del Sommer Camp. Ci sentiamo un attimino al telefono, ci vediamo e non c'è problema, capito? Grazie, sta bene, però io sono sempre interessato per i 23, lo sai che sono un fanatico dei 23 canali, beh. I tre canali, c'ho il console, c'ho altra roba, dai. C'ho altra roba, 23 canali, non c'è problema, non facciamo le... Volessi andare un po' più sul moderno, capito? Anche se è abbastanza vecchio, Però c'ha 40 canali, quindi secondo me va molto meglio. Se ho il console o l'altro più vecchio, no, sono per quelle lì, io sono arrivato a quelle lì. Non ho ancora un altro per dire che devo alzare il prezzo. coincide, ci riascoltiamo dopo. Ciao, a presto. Attenzione, Pinuccetto al Molo. Pinuccio, mi stai ascoltando? Io non ti sento più, Mi è salito il QRM e non ti ascolto più. Se ci sei, ci sentiamo dopo, Ci sentiamo dopo, magari fammi chiamata quando arrivi a casa, capito? Se ti ho sentito, d'accordo, Quando arrivi a casa chiamami, che sono in ascolto. Ciao.